voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gianbeppe Moreschi. Scarpe da papa nel mondo, 100% made in Vigevano. Di Anna Marino. Un paio di scarpe, soprattutto l'uomo, lo mette nei piedi alla mattina di buon'ora, alle 7, alle 8 quando si alza, quando va a lavorare, e normalmente non lo toglie fino a quando va a letto. Mentre per voi donne è diverso, perché avete la scarpettina bassa, quella col tacco, poi la sera o in borsa o in macchina avete le possibilità di cambiarle. L'uomo no, deve stare attento. E io dico sempre, è importantissimo la qualità della scarpa, perché 60 kg, 80 kg, 120 kg, ma sei su pochissimi decimetri quadrati e deve scaricare tutto il peso del corpo a terra. Allora, se le scarpe sono strette, cominciano i guai. L'importanza di avere un'ottima calzatura al piede per iniziare bene la giornata, come sostiene Gianbeppe Moreschi, seconda di tre generazioni di una famiglia di imprenditori nel calzaturiero, che da quasi 70 anni ha il 100% della produzione a Vigevano, nel Pavese, e senza essersi mai mossa porta oggi il Made in Italy in oltre 70 paesi del mondo. Tutto nasce da una scommessa del padre di Gianbeppe, Mario, che decide di lasciare il posto tranquillo di bancario in Alta Val Sessera per assecondare l'invito di un suo antico amico che dal biellese si era stabilito a Vigevano, facendo una fortuna invidiabile nel commercio delle calzature. Erano tempi storici, a causa della Seconda Guerra Mondiale appena conclusa, e il padre di Gianbeppe arrivava a Novara su un mezzo di linea per raggiungere poi Vigevano in bicicletta. Ecco come è nata l'avventura vigevanese della famiglia Moreschi. Si parla degli anni 44, nell'immediato dopoguerra. Mio padre, che era una persona molto eclettica, anche con un portamento di livello, era abituato a frequentare determinati ambienti. Lui era un funzionario di banca, perciò aveva rapporti con la clientela e in continuazione doveva anche presentarsi vestito in un certo modo. Difatti, dalle fotografie che abbiamo negli archivi si vede che avesse un'eleganza che era quasi fuori dai termini per quei periodi lì. E lui era funzionario di banca comunque e girava nelle varie sedi. La Biella l'ha mandato a Coggiola, Coggiola ci ha mandato a Cossato. A Cossato, nel paesino dove abitavamo, c'era un negozio di scarpe. C'era questo signor Robioglio ed erano amici, erano coetanei. Noi giocavamo con le figlie e le mogli parlavano tra di loro. Dice Mario, dice, senti un po', io sono capace di vendere le scarpe. Il mio socio è capace di fabbricarle, però non capiamo niente di amministrazione. Dice, vieni a lavorare con me. E mio padre ci ha pensato un momentino, ma a un certo momento gli fa un'offerta economica che era esattamente il triplo dello stipendio che lui prendeva in banca. Presumo che ci abbia pensato un po', avrà parlato con mia mamma e ha fatto il famoso passo. Siamo nel 1946, la guerra è appena finita lasciando dietro di sé soltanto miseria e distruzione. Nel calzaturificio di famiglia, il calzaturificio Morris, fondato nel 1946, esordisce a fianco del padre negli anni 50 Gianbeppe, attuale presidente della Moreschi. Lavorando, amministrando questa azienda, pagando i dipendenti, pagando i fornitori, incassando i soldi, ogni mese, la contabilità era molto semplificata a quei tempi là, ogni mese quello che avanzava faceva due mucchietti e li dava ai due soci, in denaro, cash, contante, senza cedole, niente. Probabilmente ha detto, ma se è così facile, l'idea di fare le scarpe. 1945, presumo, 45-46, ci lavora su, ha un know-how che ha preso, amministrativo l'aveva, ma un know-how tecnico per quello che aveva imparato nella fabbrica di scarpe di Robioglio in Certi a Vigevano, cerca dei soci che potessero finanziarlo, fanno una società e fanno calzaturificio biellese, erano tre soci, uno un neolaureato che usciva dalla Bocconi, che il fratello gli aveva dato dei capitali da investire, e un altro un avvocato in pensione e mio padre. Vigevano, grande distretto calzaturiero allora come ora, in un'Italia che stava crescendo in modo esponenziale, in cui Mario Moreschi ha voluto distinguersi. Vigevano in quegli anni lì produceva, o subito dopo ancora produceva, un terzo della produzione italiana di scarpe. C'erano grandi fabbriche, fabbriche piccole, fabbriche medie, una marea di artigiani. qualsiasi cosa si facesse il mercato la prendeva, perché dopo la guerra non c'era niente per nessuno. Mio padre invece aveva un target ben preciso, disse: io voglio fare scarpe di alta classe, da uomo. E tipica della tradizione pellettiera di Vigevano è la cucitura Mambo. Cucitura Mambo, c'era un fabbricante di suole, si comparavano anche le suole perché c'erano tanti collaboratori esterni, aveva fatto una suola tutta di cuoio alleggerita dai lati che si poteva poi cucire alla tomaia, suola Mambo si chiamava. Allora questo nome qui l'abbiamo messo per applicarlo su delle produzioni che facciamo ancora adesso con quel tipo lì di lavoro. A causa della morte improvvisa di Mario Moreschi nel 1957, il figlio Gianbeppe si ritrova al vertice dell'azienda, portandola in un decennio al decollo definitivo. La fondazione ufficiale del calzaturificio Moreschi avviene nel 1963, in un modo roccambolesco. Il calzaturificio Morris è andato avanti fino al 1961-62. In quei tempi c'era un'azienda che si chiamava Morris di Parma, che faceva profumi, abbigliamento, occhiali, articoli per l'abbigliamento, cravatte, non so cosa facesse. Nel frattempo noi cominciavamo a espanderci sul mercato, questo ho visto questo Morris che si allargava, ci cita in tribunale dicendo che gli abbiamo copiato il nome. Mio padre non c'era già più, era già morto, ero io a quel momento là. Morris era la contrazione di Moreschi, perché se avessimo fatto Morris, in latino sono i costumi morali, perciò non andava bene. Andiamo in tribunale, per l'avvocato che poteva permettermi a quel tempo là probabilmente avrà detto: vostro onore, il minimo della pena. E il minimo della pena è stato di smettere di usare questa marca, distruggere gli imballi che potevano essere quelle cose lì e di non usarla più. E anche il logo, il marchio inconfondibile delle due scarpe da uomo stilizzate nero su bianco, diventa il simbolo di un'azienda grazie a un incontro fortunato all'avanguardia. In questo momento siamo nel 1959-60-61, qualcosa del genere, in una fiera di Vigevano, che la fiera internazionale del calzature si teneva a Vigevano. Noi avevamo il nostro piccolo stand, sarà stato 4 metri quadrati, 6 metri quadri, durava una settimana. E venivano i compratori da tutto il mondo e tutti facevano affari, vedevano. Io ero lì nel mio stendino che guardavo, ho visto un signore molto distinto, vestito di nero, con i baffetti, che entrava da una parte, poi usciva, poi entrava dall'altra. Io ero a metà del corridoio e dico: chissà se viene dentro anche da noi a comprare. A un certo momento arriva, entra, si presenta, per me è Angelo Gabriele Franzoni, Gianbeppe Moreschi. E cerca di dirmi che lui può fornire dei servizi, qualcosa. Dice: guarda, io non ho bisogno proprio di niente, c'ho un problema, devo cambiare il nome. E perché? Allora gli racconto la storia Morris, cioè, mi ha detto che si chiama Moreschi. Dice: va bene, questo sarà il vostro futuro nome commerciale. Mi dà l'idea, dico, comunque poi fissiamo un appuntamento, poi viene a trovarci a Vigevano, vengo a trovarlo a Milano, perché era molto creativo. A un certo momento comincia a dirmi: non basta avere il nome di un'azienda, bisogna avere un segno grafico che tutti lo possono leggere e collegare col prodotto. E mi fa l'esempio della Mercedes. Dice: la Mercedes c'ha una stella a tre punte, in tutto il mondo riconoscono la stella a tre punte e la legano al marchio Mercedes. Oggi il nuovo polo produttivo è immerso in 20.000 metri quadrati destinati all'area verde. Il polo comprende un factory outlet e una nursery per i figli dei dipendenti. Attenzione ai lavoratori, la risorsa più preziosa per realizzare un prodotto artigianale, ai 400 addetti alla lavorazione per circa 300.000 paia di scarpe all'anno, 40 boutique monomarca nel mondo. Ma non è cambiato nulla nella qualità. La fatica viene fatta dalla macchina, ma c'è sempre la mano dell'uomo. Io non ho cambiato niente da quello che ha fatto mio padre. Il numero di operazioni è sempre quello. Da quando arriva un automezzo che mi scarica del materiale, da quando il materiale viene messo in magazzino e poi viene tolto dal magazzino e viene mandato in lavorazione, ci sono tra le 240 e le 350 operazioni manuali diverse a seconda della complessità della scarpa, ma sono sempre quelle. Qualità che è arrivata lontano, fino a vestire i piedi del pontefice. Non che Papa ci abbia chiesto le scarpe. A quei tempi io rappresentavo il consorzio San Crispino e Crispiniano, che era la sede a Vigevano, sono i santi protettori dei calzolai, e tutte le volte che c'era un Papa nuovo andavano a offrire delle scarpe, sia per beneficenza e sia per uso personale del Papa. È stato con Giovanni Paolo II che 1° aprile 1989 siamo stati ricevuti in Vaticano in un'udienza privata, tutti i calzaturieri italiani, eravamo circa 200, e io ero il capofila, ero quello che ho dovuto fare lo speech col Papa, 3/4 d'ora a tu per tu con il Papa. I miei colleghi mi dicevano: ma come hai fatto a parlare senza emozionarti? L'emozione mi è scoppiata dopo. Quando siamo usciti dal Vaticano ho cominciato a parlare, ho smesso a mezzanotte quando siamo arrivati a casa. La seconda volta Benedetto XVI ha voluto incominciare i suoi viaggi in Italia da dove non si era fermato Giovanni Paolo II, perciò il primo posto dove è venuto a Vigevano. E da Vigevano la saggezza viaggia con le sue scarpe nel mondo. Certe frasi o certe espressioni, quando le dici in dialetto, sono molto più colorite. Meni rusche patì. Certe volte ti trovi nella vita per fare delle scelte o dare delle risposte che non sono piacevoli da dare. Però se hai il coraggio, la forza di dire a uno: se non mi paghi non ti do merce, arrossisci magari. Però se non glielo dici, poi patisci. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.